Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge La sovrana lettrice di Alan Bennett. Traduzione di Monica Pavani. Con sua leggera sorpresa, quell'anno la regina compì 80 anni. Il compleanno non passò precisamente inosservato. Venne celebrato con varie iniziative, alcune a lei più gradite di altre, dato che i suoi consiglieri vedevano quella ricorrenza come l'ennesima opportunità per mettere in buona luce la monarchia davanti al volubile popolo. Non stupì quindi che la regina decidesse di dare un ricevimento suo per radunare tutti coloro che avevano avuto il privilegio di consigliarla nel corso degli anni. Di fatto si trattò di una festa per il Consiglio della Corona. I suoi membri nominati a vita lo rendono un corpaccione ingombrante che di rado si riunisce al completo e comunque solo in occasioni di una certa gravità. Ma nulla vietava, pensò la regina, di invitarli tutti per il tè. E che tè? Prosciutto, lingua, senape e crescione, focaccine, torte e perfino zuppa inglese. Molto meglio di una cena, pensò, e anche più intimo. L'abito elegante non era stato espressamente richiesto, però Sua Maestà era linda e impeccabile come ai vecchi tempi. Quanti consigli aveva ricevuto negli anni, pensò contemplando la stanza gremita. Gli invitati erano accorsi così numerosi che avevano dovuto farli accomodare in una delle stanze più maestose del palazzo, con il lauto tè allestito in due saloni adiacenti. La regina si aggirava felice tra i suoi ospiti e senza familiari al seguito, perché loro, pur facendo parte del Consiglio della Corona, non erano stati invitati. «Li vedo già abbastanza», disse la regina, «mentre è difficile che veda tutti voi insieme, e non vorrei che la prima occasione fosse il mio funerale. Provate la zuppa inglese, è una cannonata». Era raro che la regina fosse così di buon umore. La prospettiva di un tè come si deve aveva attirato molti più consiglieri del previsto. La cena sarebbe stata una seccatura, mentre il tè era un piacere. Il risultato fu però che le sedie scarseggiavano. Ci fu un gran viavai di camerieri per trovare un posto a tutti, anche se quello contribuì al divertimento. Alcuni vennero fatti accomodare sulle classiche sedie dorate da ricevimento, altri si videro assegnare un inestimabile bergère Luigi XV o una poltrona con monogramma presa dall'ingresso, mentre un ex presidente della Camera dei Lord finì appollaiato su uno sgabellino col sedile di sughero portato giù dal bagno. La regina osservò placida tutto quell'andirivieni, non proprio da un trono, ma certamente da una poltrona più grande di quella di chiunque altro. Si era portata dietro il tè e continuò a sorseggiarlo e a chiacchierare finché non si furono seduti tutti. «Ho sempre saputo di avere dei buoni consiglieri, ma non mi ero mai resa conto di quanti foste. Che folla! Forse, maestà, dovremmo cantarle in coro tanti auguri», disse il primo ministro, naturalmente seduto in prima fila. «Non esageriamo», disse Sua Maestà. «È vero che compio 80 anni e che questa è una specie di festa di compleanno, ma non so bene cosa ci sia da festeggiare. Mi sento solo di dire che è un'età a cui poter morire senza che sia una tragedia nazionale». Qualcuno ridacchiò educatamente e anche la regina sorrise. «Riterrei più appropriato», disse Sua Maestà, «che reagiste con un coro di no». Fu assecondata con altre risate, mentre le personalità più eminenti del paese provavano il brivido di scherzare con la più illustre. «Come tutti sapete, sono regina da molto tempo. In più di 50 anni ho visto passare, se non trapassare, risate dal pubblico, 9 primi ministri, 6 arcivescovi di Canterbury, 8 presidenti della Camera dei Comuni e, per quanto possa sembrarvi fuori tema, 53 cagnolini corghi. Una vita, come dice Lady Bracknell, costellata di eventi. Sorrisi compiacenti dalla platea, qualche risatina qua e là. Era un po' come essere a scuola e non più in là delle elementari. «E naturalmente non è finita», disse la regina. «Non passa settimana senza che succeda qualcosa di nuovo. Uno scandalo, un insabbiamento, perfino una guerra. E dato che è il mio compleanno, vedete di non fare l'aria seccata». Il primo ministro stava studiando il soffitto e il ministro degli interni il tappeto. «Io guardo le cose in prospettiva, come del resto ho sempre fatto». A 80 anni le cose non succedono, si ripetono. Comunque, come alcuni di voi sapranno, ho sempre detestato gli sprechi. Narra la leggenda che io faccia il giro di tutto Buckingham Palace per spegnere le luci, il che sarebbe sintomo di tirchieria, ma oggigiorno la chiamerei preoccupazione per l'effetto serra. Ma proprio perché non sopporto gli sprechi, penso a tutte le esperienze uniche che ho vissuto, molte delle quali messe effettivamente a verbale, conversazioni con capi di Stato, per esempio, annotate e riassunte, ma tante altre no. Una vita intensa in cui sono stata, sì, solo una spettatrice, però molto partecipe, soprattutto Sua Maestà si picchiettò la testa fresca di parrucchiere. Soprattutto qui dentro. La domanda è: che ne sarà di tutte queste cose? Il primo ministro aprì la bocca come per dire qualcosa e fece anche per alzarsi dalla sedia. Era una domanda retorica, disse la regina. Il ministro ricadde a sedere. Come alcuni di voi sapranno, negli ultimi anni sono diventata un'accanita lettrice. Non mi sarei mai aspettata che i libri arricchissero tanto la mia vita, ma la lettura mi ha dato quel che poteva. Ora per me è venuto il momento di diventare, o provare a diventare, una scrittrice. Il primo ministro aveva ricominciato ad agitarsi e la regina, notando che con i primi ministri succedeva di solito così, gli cedette educatamente il campo. «Un libro, maestà? Ah, sì, i ricordi della sua infanzia e la guerra, il bombardamento del palazzo, il suo ruolo nell'aviazione ausiliaria femminile. Milizia territoriale ausiliaria», corresse la regina. «Sì, le forze armate, quello che è», disse in fretta il primo ministro. «Poi il matrimonio, le circostanze drammatiche in cui ha saputo di essere diventata regina, creerà molto scalpore. E non ho dubbi», concluse ridacchiando, «sarà un bestseller». «In cima alle classifiche di tutto il mondo», strombazzò il ministro degli interni. «Sì», disse la regina, «se non fosse», e assaporò il momento, «che non è proprio il tipo di libro a cui pensavo. Quello è un libro che chiunque è in grado di scrivere, e molti l'hanno già scritto, secondo me con risultati tediosissimi. No, io avevo in mente un libro di altro genere». Il primo ministro, tetragono, alzò le sopracciglia in segno di cortese interesse. Forse la vecchia intendeva un libro di viaggi, vendevano sempre bene. La regina si mise comoda. «Pensavo a qualcosa di più radicale», disse, «di più impegnativo». Dato che radicale e impegnativo erano due parole che il primo ministro pronunciava spesso e volentieri, non lo misero in allarme. «Qualcuno di voi ha letto Proust?» domandò la regina agli astanti. «Chi?» bisbigliò uno che era sordo e altri alzarono la mano, ma il primo ministro no. Così un giovane membro del governo che l'aveva letto e stava per alzarla si guardò bene dal farlo. La regina contò. 8, 9, 10. E notò che erano quasi tutti relitti di governi molto più vecchi. Beh, è già qualcosa, ma non sono tanto sorpresa. Se avessi fatto la stessa domanda ai membri di qualche governo fa, sono certa che avrei visto alzarsi una dozzina di mani, inclusa quella di Macmillan. Ma non posso certo infierire, dato che anch'io ho letto Proust solo di recente. «Io ho letto Trollope!» esclamò un ex ministro degli esteri. «Questo mi fa molto piacere», disse la regina, «ma Trollope non è Proust». Il ministro degli interni, che non aveva letto nessuno dei due, annuì con aria saggia. «Il romanzo di Proust è lungo, ma volendo ce la fareste a leggerlo tutto durante la pausa estiva, sci d'acqua permettendo». Alla fine il narratore, Marcel, ripensa alla sua vita, che in realtà non è stata granché, e decide di riscattarla scrivendo appunto il romanzo che ho appena letto, dove svela qualche segreto della memoria e dei meccanismi del ricordo. Io invece non posso negare che la mia vita, a differenza di quella di Marcel, sia stata ricchissima, eppure anch'io sento di doverla riscattare con l'analisi e la riflessione. «Con l'analisi?» fece il primo ministro. «E la riflessione?» ribadì la regina. Il ministro degli interni azzardò una battuta che avrebbe avuto molto successo alla Camera dei Comuni. «Dobbiamo dedurre che Sua Maestà ha deciso di scrivere questo resoconto per effetto di un libro e per giunta di un libro francese!» Seguirono un paio di risolini. Ma la regina non sembrò neanche accorgersi della battuta, che in effetti lasciava un po' a desiderare. «No, ministro, del resto i libri, come certo saprà, è raro che inducano ad agire. In genere confermano solo quello che, magari inconsapevolmente, si è già deciso di fare. Si ricorre a un libro per avere conferma delle proprie convinzioni. In altri termini, per chiudere un capitolo». Alcuni consiglieri, che da un bel po' erano fuori dal governo, si resero conto di avere davanti una donna diversa da quella che ricordavano e di conseguenza ne furono affascinati. Ma il resto degli astanti sedeva in un silenzio imbarazzato, perché pochi di loro capivano quello che stava dicendo e lei se n'era accorta. «Vi vedo perplessi», disse tranquilla, «ma vi posso assicurare che è capitato anche a voi». Erano di nuovo a scuola e lei era la maestra. Cercare delle giustificazioni per un'azione già decisa in partenza è la premessa inconfessata di ogni pubblico accertamento. Vi pare? Il ministro più giovane rise e subito se ne pentì. Il primo ministro non rideva affatto. Se questo era il tono di ciò che la regina si apprestava a scrivere, non c'era modo di prevedere quel che avrebbe detto. «Continuo a pensare che farebbe meglio a raccontare la sua vita, maestà», ribadì il primo ministro stremato. «No», ribatté la regina, «non mi interessano le facili reminiscenze. Spero che sarà qualcosa di più ponderato. Anche se quando dico ponderato non intendo riguardoso. Scherzo». Nel silenzio generale, il sorriso stampato sulla faccia del primo ministro era diventato un ghigno orrendo. «Chissà», disse la regina allegramente, «magari il mio libro potrebbe sconfinare nella letteratura». «Avrei detto», fece l'altro, «che Sua Maestà fosse al di sopra della letteratura». «Al di sopra della letteratura?» esclamò lei. «Chi mai può essere al di sopra della letteratura? Sarebbe come essere al di sopra dell'umanità. Ma ripeto, non ho ambizioni letterarie. Mi interessano l'analisi e la riflessione. Ci sono quei 10 primi ministri». Fece un sorriso smagliante. «C'è molto su cui riflettere. Ho visto il paese entrare in guerra più volte di quanto ami ricordare. Anche lì c'è da pensarci su. Sua maestà sorrideva ancora, ma la imitarono solo i più anziani, che non avevano niente da perdere. Ho incontrato e anche ospitato molti capi di Stato in visita ufficiale. Certi erano dei farabutti fatti e finiti, con mogli della stessa risma. Qui almeno ci fu qualche mesto cenno di assenso. Ho teso la mano guantata di bianco a mani grondanti di sangue, e conversato amabilmente con uomini che avevano trucidato dei bambini. Mi sono fatta strada tra escrementi e sangue rappreso, e spesso ho pensato che l'equipaggiamento essenziale per una regina è un paio di stivaloni di gomma. Su richiesta dei miei vari governi sono stata costretta a consentire, seppure passivamente, a decisioni a mio parere avventate e spesso ignobili. A volte mi sono sentita come una candela mangiafumo mandata qua e là per profumare delle dittature. Al giorno d'oggi la monarchia è solo un deodorante governativo. Io sono la regina d'Inghilterra, ma negli ultimi 50 anni me ne sono vergognata spesso. Tuttavia, e si alzò, non dobbiamo perdere di vista le priorità. E dopo tutto, questa è una festa. Quindi, che ne dite di un po' di champagne prima di continuare? Lo champagne era eccellente, ma vedendo che uno dei paggi che lo serviva era Norman, il primo ministro non lo gradì più di tanto e sgattaiolò nel corridoio per raggiungere il bagno, da dove chiamò col cellulare il consulente legale del governo. Questi fece il possibile per rassicurarlo e il primo ministro, rinvigorito dal suo parere, trasmise il messaggio ai vari membri del governo. Così la regina, al suo rientro nella stanza, si trovò davanti un gruppo molto più saldo. Abbiamo discusso di quello che ha detto, maestà, attaccò il primo ministro. Ogni cosa a suo tempo, disse lei. Non ho ancora finito. A scanso di equivoci, il libro che ho in mente, e anzi ho già iniziato a scriverlo, non è uno di quegli sproloqui sulla vera vita a corte, tanto amati dai tabloid. No, non ho mai scritto un libro, ma spero che, e si interruppe, si eleverà al di sopra delle circostanze e vivrà di vita propria. Saranno digressioni sulla nostra epoca. E magari vi tranquillizzerà sapere che non sarà incentrato sulla politica o i fatti della mia vita. Vorrei parlare anche di libri e di persone, ma niente pettegolezzi, quelli non mi interessano. Un libro che la prenda da lontano. Qualcuno, mi pare Foster, ha scritto «Dite tutta la verità, ma ditela insinuandola». L'importante è girarci attorno. O era Emily Dickinson? Chiese all'assemblea. Com'era da prevedere, nessuno rispose. Ma devo smettere di parlare, altrimenti va a finire che non lo scrivo. Non bastò a tranquillizzare il primo ministro il pensiero che spesso chi vuole scrivere un libro poi non ci riesce. Alla fine la regina, col suo irriducibile senso del dovere, l'avrebbe scritto di sicuro. E quindi, primo ministro, diceva? Si voltò Gaia verso di lui. Il primo ministro si alzò. Pur nell'assoluto rispetto delle sue intenzioni, disse con un tono cordiale e rilassato, tengo a ricordarle che lei si trova in una posizione unica, maestà. È raro che me ne dimentichi, disse la regina. Vada avanti. Nessun nostro monarca, mi corregga se sbaglio, ha mai pubblicato un libro. La regina gli fece di no col dito, un gesto che le ricordò all'istante un vezzo di Noel Coward. Questo non è esatto, primo ministro. Per esempio, il mio avo Enrico VIII un libro l'ha scritto contro l'eresia. Per questo io vengo ancora chiamata difensore della fede. E anche la mia omonima Elisabetta I ha scritto un libro. Il primo ministro fece per protestare. Sì, lo so che non è la stessa cosa, ma la mia bisnonna, la regina Vittoria, ha scritto a sua volta un libro, pagine da un diario scozzese, anche piuttosto noioso e talmente innocuo che quasi non lo si può leggere. Non è un modello che intendo seguire. E poi... E qui la regina guardò fisso il primo ministro. Mio zio, il duca di Windsor, ha scritto La storia di un re, dove racconta del suo matrimonio e delle successive avventure. Non basterebbe anche solo questo come precedente? A quel punto, provvisto del parere del consulente legale, il primo ministro gonfiò visibilmente il petto e con apparente rammarico sollevò la sua obiezione. Sì, maestà, ma c'è una differenza. Sua Altezza Reale ha scritto il libro come duca di Windsor. Poté farlo solo perché aveva abdicato. Ah, ma non ve l'avevo detto, disse ridendo la regina. Perché pensate che vi abbia convocati tutti qui?